Al Hujurat. Le stanze intime. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. O credenti, non anticipate a Allah il suo messaggero e temete Allah. Allah è udiente, sapiente. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O credenti, non alzate la vostra voce al di sopra di quella del profeta. E non alzate con lui la voce come l'alzate quando parlate tra voi, che rischiereste di rendere vane le opere vostre, a vostra insaputa. Innalladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Coloro che abbassano la voce davanti all'inviato di Allah sono quelli cui Allah ha disposto il cuore al timore di Lui. Avranno il perdono e ricompensa immensa. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Quanto a coloro che ti chiamano dall'esterno delle tue stanze intime, la maggior parte di loro non comprendono nulla. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Se avessero atteso con pazienza finché tu non esca loro incontro, sarebbe stato meglio per loro. Allah è perdonatore, misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela affinché non portiate per disinformazione pregiudizio a qualcuno, e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto. Wa'lamu